Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo il presidente Carlo Garofolini con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te oggi tocchiamo ancora un argomento che credo sia di assoluto interesse e riguarda le case. Le case, perché soprattutto con l'ATER di Mestre ci sono parecchi problemi e molti si rivolgono a voi dell'Adico. Sì, parliamo innanzitutto di uno sportello denominato Sfratti e Condominio, che è uno sportello dedicato proprio alle problematiche che le persone in comune essere hanno con il condominio per qualsiasi motivo. E di qualche giorno fa, che facevamo un pochino il censimento di quelle che sono le attività del 2015, che perdonami il termine, va per la maggiore, e abbiamo notato come ci sono in piedi un sacco di posizioni aperte nei confronti dell'ATER. In questo caso, per semplificarci il lavoro, abbiamo puntato il dito nell'ATER della provincia di Venezia, però certamente se parliamo di ATER non è che Padova sia meglio di Treviso, Belluno sia meglio di Vicenza. Il problema dell'ATER sostanzialmente sono questi edifici pubblici, alloggi pubblici, che vengono assegnate a persone che hanno un certo, vivono in una certa condizione, non so se anche qui si può parlare di indigenza, ma certamente che persone che si rivolgono al comune perché hanno bisogno di aiuto e richiedono un alloggio pubblico, che quindi hanno delle agevolazioni anche sui prezzi di affitto, e di qui insomma abbiamo scoperto insomma come ci sono ancora un sacco di posizioni aperte quest'anno nei confronti di punto di quest'ente. Sì, perché poi magari c'è chi la casa ce l'ha, ma vive all'interno di questa casa che non è messa proprio bene. Sì, allora innanzitutto bisogna capire che le persone, appunto, come detto, sono persone che vivono in una certa condizione, che hanno dei limiti dichiarati appunto anche dai redditi ISEE, di cui i comuni sostanzialmente hanno l'obbligo un po' di assegnare in base alla disponibilità e alla domanda che hanno. Però è anche vero che ci siamo resi conto come i casi sono aumentati quest'anno del 10% rispetto all'anno precedente, e di come anche le problematiche più comuni riguardano la condizione che questi alloggi si trovano e di cui le persone si sono rivolte all'Adico per denunciarli. Parliamo di problemi di muffa, problemi di manutenzione ordinaria, parliamo di problemi anche di normale gestione in cui magari ci sono tante cose che non funzionano da sistemare, per la luce delle scale, l'ascensore eccetera, ma che l'Adico, una volta che prende incarico, si trova sempre di fronte a un'incognita come la lungaggine che quest'ente ha a dover dare una risposta chiara e certa su quelle che sono un po' le tempistiche di risoluzione delle posizioni. Tradotto, cosa vuol dire? Che la persona quando viene qua incarica i nostri uffici, i quali, una volta che segnalano situazioni particolari a quest'ente, quest'ente normalmente tende sempre a non rispondere, a non dare delle risposte certe quando lo fa, quelle poche volte, e soprattutto a non dare una definizione certa sui tempi. Questo noi lo abbiamo voluto denunciare perché si rischia veramente a dover sempre portare al limite il nostro ufficio legale a intraprendere azioni giudiziali, che non è nostra intenzione fare per non aggravare i contribuenti di costi, ma per lanciare anche un appello a quest'ente a rendersi un pochino protagonista su quelle che sono un pochino i rapporti con questi condomini e cominciare a dare anche risposte concrete sul campo rispetto alle numerosissime richieste. Anche perché, Carlo, io immagino che se tu vivi in un appartamento e ci sono delle cose che non vanno, come finestre rotte o quant'altro, segnali la cosa all'ATER e poi solo dopo magari ripetuti tentativi e non risposte, uno va a chiedere aiuto, come ti è successo proprio all'Adico, alla vostra associazione. Sì, noi abbiamo notato come lo sportello condominio è uno sportello molto attivo. Certamente l'ATER è l'unico ente rispetto a qualsiasi altro, parliamo di enti pubblici, fornitori di servizi di un tipo rispetto di un altro, che ha appunto questo modo di rispondere che veramente porta quasi all'esasperazione tutti. Noi vogliamo evitare di presentare appunto istanze davanti ai giudici per non aggravare quella che sono già delle situazioni in generale delicate, però non comprendiamo come mai questi non hanno interesse ad attivare un canale per poter, come fanno fatto o fanno un po' tutti, e cercare di risolvere almeno le problematiche più semplici. Ad oggi parliamo di anche persone che hanno a cuore il proprio alloggio e che vogliono tenerlo anche in un certo stato di conservazione, e certamente questo atteggiamento non aiuta nessuno e rischia anche di poi a far aggravare quella che è una situazione che con il tempo poi una persona si abitua a scelà, e quindi rischiamo di andare poi sui degradi che ormai sono noti alle cronache. Quindi una situazione che, siccome coinvolge centinaia, migliaia di persone e famiglie in tutto il Veneto, riteniamo che ci sia insomma qualcuno che abbia voglia veramente di rendersi protagonista nel suo lavoro e dare delle risposte concrete almeno ai nostri uffici, per evitare appunto a ciascuno di noi fare il nostro lavoro nel modo migliore e quindi anche nella maggior convenienza assoluta, come l'Abico si contraddistingue sempre in queste problematiche. Ecco, quindi il sasso l'abbiamo lanciato. Adesso, se qualcuno che è all'ascolto vive in una casa ATER e vuole segnalare ulteriori problemi, insomma, l'ufficio vostro è aperto, e quindi vediamo se è un caso, se questo 10% in più rispetto all'anno scorso può anche diventare qualcosa di più a livello di percentuale, oppure magari è un caso isolato, ma speriamo bene. Intanto ricordiamo che gli uffici dell'Adico sono aperti e trovate gli orari e tutto quello che vi può servire nel sito associazionedifesaconsumatori.it. Carlo, nella speranza che le cose vadano meglio, ci risentiamo anche tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.